ancora qui, neanche la democrazia non parla di un po' di animo che ho studiato. La camera è una camera.